Quindi vuol dire che, a fronte del fatto che le scuole calano per le nostre ragioni, il numero dei visitatori paganti cresce ancor più del 27%. Sono percentuali che qualunque azienda firmerebbe. Ah, subito, certo. Senta, un'altra cosa, mi tocca una curiosità. Lei ha detto che vorrebbe portare Bob Dylan a suonare, ho capito male? No, ho detto, mi hanno interpellato sul tipo di musica da fare davanti alla legge. Ho semplicemente detto che la legge chiede allo spettacolo un certo tono. Stiamo parlando di un grande monumento. Sì. Poi d'altra parte Fedicori, io non critico, sì. Però forse la legge potrebbe pretendere un tono più elevato, il che non vuol dire musica necessariamente sofisticata. Quindi ho detto non è necessario che sia Stockhausen, può essere benissimo Bis, che non è da meno di Stockhausen, secondo me, anche se gli ascolti sono enormemente distanti. Insomma, la strada è quella di essere anche un po' popolari, perché se a Pompei arriva Elton John, lei dice io sto qua vicino a Caserta, faccio arrivare almeno Bob Dylan. Ma non c'è dubbio, ma non è una sciocchezza dire che l'alta cultura e la musica commerciale sono due insiemi totalmente separati. Cioè, si fa dell'ottima musica commerciale e non vedo perché non promuoverla. In più la Reggia non è una Reggia, è un museo familiare, vengono le famiglie con i bambini, era la casa dei re, vengono a vedere la storia, a ricreare lo stupore. Anzi, noi dovremmo farlo di più, dovremmo fare un museo più emozionante, in cui si vedano non solo i letti dei re, ma anche i bidet dei re, ma anche le figure che parlano. Dovremmo sapere animare questo museo. Giusto. Adesso, anzi, attendiamo dei fondi. Il ministro ci ha promesso dei fondi per questo. Va bene, grazie Fedicori. Arrivederci. Arrivederci. Grazie. L'amore in fondo non è poi che un baratto, dai troviamo riscatto. Di qualche cosa ti puoi anche privare, dai facciamola fare. Io ti do un occhio, poi mi guarderai. Se ti darò il cuore, lo farai pulsare. O lo getti in fondo al mare. Se ti do il femore, tu che ci fai? Ti do uno schiaffo, tu a chi lo dai? Già, la pelle mia rimane qua. Oggi sempre più sdraiati ormai sul piano inclinato della nostalgia, anche per introdurre la prossima notizia. La città di Massarosa, in Toscana, diventa un po' la capitale di una nuova tendenza che è il baratto amministrativo. Se hai un debito col comune lo puoi pagare col lavoro, se non sei in grado di pagarlo in moneta. E allora diamo il buongiorno al sindaco di Massarosa, Franco Mungai. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Buongiorno. È una norma che viene dallo Sblocca Italia? Che cos'è? Esatto, viene dall'articolo 24 del decreto Sblocca Italia. Peraltro sì. Era un progetto che avevamo già pensato ai tavoli di sviluppo, nel tavolo qualità del vivere nel 2012, quindi addirittura anche prima che ci fosse questa opportunità. Poi col decreto Sblocca Italia questo è stato possibile concretizzarlo. Praticamente abbiamo fatto un discorso molto semplice con i nostri cittadini. Cittadini, siete in difficoltà a pagare le tasse, avete tempo da impegnare per venire incontro a quelle che sono le esigenze della collettività, vi diamo la possibilità di farlo, vi scontiamo il 50% della TARI, la tassa sui rifiuti. Quindi in cambio dell'esecuzione diretta di opere che riguardano la manutenzione del territorio, e principalmente gliele posso elencare sinteticamente, sono la pulizia e la manutenzione delle strade, dei parchi pubblici, delle sedi scolastiche, la preapertura delle scuole, l'esecuzione di manutenzioni all'interno degli edifici comunali, quali manutenzioni elettriche, idrauliche, di imbiancatura, di muratore. Noi diamo la possibilità ai cittadini che hanno aderito e anche alle associazioni di avere il 50% della riduzione. Ma come funziona? Come funziona? Sì. Nel senso che io che non ho i soldi, non voglio, cioè vorrei usufruire di questo sconto, mi iscrivo, vengo da voi e vi dico io sono disponibile? Noi abbiamo fatto un bando, abbiamo detto chi è interessato si faccia avanti, senza dare limitazioni, perché non sapevamo quale sarebbe stato il ritorno, essendo stati primi in Italia. Quindi abbiamo detto i criteri selettivi li introduciamo dopo. Sono venuti oltre 100 cittadini e detto questo, abbiamo pensato è compatibile con le nostre finanze, accettiamoli tutti, e tutti quanti quelli che hanno chiesto di aderire li abbiamo presi. Praticamente a questo punto si è movimentato un numero di persone che oscilla tra i 220 e 250 persone. Ma bisogna, è un progetto bellissimo. Bisogna, scusi, dimostrare di non essere in grado di pagare, di poter pagare in moneta oppure no? Addirittura anche chi ha tempo da dedicare al comune, chi lo vuol fare perché vuol dare il suo contributo alla collettività, gli abbiamo dato anche a questi la possibilità. Quindi non c'è la necessità di essere indigenti, si può anche proprio decidere, io preferisco pagare metà in contanti e metà in opere. Esatto, perché sulla base di quelli che sono adesioni, il nostro comune è un comune di 23.000 abitanti, quindi è abbastanza consistente. Il numero, diciamo, delle persone che hanno aderito era adeguato a quella che era la nostra idea. Tra l'altro li abbiamo dotati dei dispositivi di protezione individuale, cioè tutte le scarpe antinfortunistiche, le pettorine per chi lavora sulle strade, i caschi, e poi tutti i mezzi di lavoro di cui hanno bisogno, perché ci vogliono le falciatrici, tutto quello che serve per fare questi lavori. L'abbiamo dato noi, da non dover far spendere il cittadino che poi faceva queste opere da un punto di vista di attrezzatura. Mi sembra molto saggio questo progetto, e se accetta anche un complimento ulteriore, mi sembra molto bello anche il fatto di dire aspettiamo di vedere quante persone fanno richiesta e dopo decidiamo anche i criteri di scelta, di modo di non limitare per niente, perché giustamente lei dice se li posso accettare tutti perché devo mettere degli astrusi criteri di scelta, li ho accettati tutti, quindi personalmente le faccio veramente i complimenti. Sindaco, grazie. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Bevete più latte, il latte fa bene, il latte conviene a tutte le età. Bevete più latte, prodotto italiano, rimedio sovrano per tutte le età. Bevete più latte, bevete più latte, bevete più latte. Va bene, l'avete capito, parliamo di latte con questi Avion Travel. Bevete più latte. La notizia che ci è molto piaciuta è questa: arriva l'etichettatura trasparente, un decreto del governo che prevede tre diciture chiare in etichetta: il paese di mungitura, il paese di confezionamento e quello di trasformazione. Ne parliamo con Rolando Manfredini, responsabile qualità di Coldiretti. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno ascoltatori. Buongiorno. Allora Manfredini, siamo molto contenti perché la trasparenza sull'etichetta dei prodotti che, insomma, commestibili che consumiamo è sempre una buona notizia, non dovrebbe far male a nessuno, non dovrebbe spaventare a nessuno. Che cosa cambia adesso con questa etichetta trasparente nel latte? Cambia che finalmente, per quanto riguarda il latte più consumato in Italia, che è il latte a lunga conservazione, avremo quindi l'indicazione, come diceva lei in premessa, da dove arriva questo latte, quindi sostanzialmente il paese dove è stato muto, dove è stato confezionato, dove è stato trasformato. Devo dire che se i tre paesi coincidono, c'è un'indicazione ristretta ma efficacissima, che è quella di dire l'origine, per esempio Italia o l'origine Germania, se tutte e tre le fasi che abbiamo detto coincidono. Questo certamente questo certamente per i consumatori è un vantaggio enorme nel conoscere da dove arriva il latte per fare una scelta consapevole. Come è avvenuto, diciamo, per il latte fresco, perché ricordiamo che l'altro latte che noi consumiamo, il latte fresco, l'indicazione d'origine obbligatoria ce l'ha già. Quindi diciamo a completamento di tutto quello che è l'universo latte. oltretutto non solo per il latte, ma aggiungiamo che questa indicazione va anche per i trasformati, quindi per i formaggi e i latticini, cosa che prima non c'era assolutamente. Senta, perché il problema del latte viene insomma da molto lontano, perché insomma dagli anni dell'inizio del famoso regime delle quote latte, per cui l'Italia tra l'altro sforando queste quote ha pagato anche miliardi di euro di multe, il latte veniva pagato in media agli allevatori 25 centesimi di euro al litro, i consumatori lo pagavano poco meno del doppio. Oggi, dite voi, prezzi alla mano, il latte fresco in particolare ha moltiplicato di 4 volte il costo dalla stalla allo scaffale, cioè praticamente a voi viene pagato poco più di 20 anni fa. Centesimi. E invece i consumatori lo pagano 4-5 volte tanto. Cosa è successo? Come mai succede questo, Manfredini? Se possiamo utilizzare un termine, proprio negli ultimi tempi c'è stata una vera e propria guerra sul latte che si è ripercorsa in tutta Europa, in particolar modo in Italia. Noi abbiamo dei prezzi ormai del latte alla stalla che sono inferiori al costo, diciamo, che sosteniamo per alimentare per esempio il bestiame. Questo la dice lunga sul fatto che moltissime stalle hanno chiuso, perché questo è. Si pensa che nel 2005 avevamo circa 60.000 allevamenti, siamo adesso nell'ordine di 33.000 allevamenti, quindi siamo a una diminuzione che è veramente incredibile. Naturalmente queste dinamiche del prezzo hanno inciso moltissimo, perché un'impresa non può lavorare, soprattutto un'impresa che fa latte, non può lavorare al di sotto del costo di produzione. Se lavora al di sotto del costo di produzione, il giorno dopo il latte deve essere comunque in un qualche modo utilizzato, perché altrimenti non c'è, ha una finestra di vita di un giorno il latte, quindi è un alimento complicato. Quindi se non viene ritirato deve essere buttato, questo è. E naturalmente in questo gioco purtroppo perverso dell'aumento e della diminuzione dei prezzi, l'Italia è quella che ci ha sostanzialmente rimesso di più, perché la forbice è molto divaricata tra la produzione e la vendita. E quindi Manfredini, come mai? Forse perché in Italia ci sono troppi, tanti piccoli produttori che non riescono, ognuno va per conto suo, non riescono a fare il prezzo? Fare cartello? Vero, perché questo il ritiro del latte è stato sempre comunque garantito, e quindi l'organizzazione per il ritiro del latte è stata sempre comunque garantita. Quello che invece è proprio mancato è che talune multinazionali, in particolare una, hanno imposto di fatto un prezzo del latte di un certo tipo che è al di sotto dei costi di produzione, quindi è venuta l'imposizione da loro, altrimenti fanno tutto il ritiro e il latte e siamo a posto. E questo certamente ha fatto sì di arrivare proprio al limite, anzi al di sotto del limite del costo di produzione, che non deve essere, l'impresa chiude. Questo è il problema. Quindi c'è un problema sostanzialmente di imposizione da parte del prezzo di chi poi lo ritira e lo trasforma, e che non in Italia purtroppo ha dei problemi molto molto molto più elevati che in altri paesi. Sì, soprattutto non è chiaro se si impone un prezzo basso del latte perché una multinazionale lo impone, però poi a noi in realtà il latte costa 4 volte quello che costava 20 anni fa, quando in proporzione ve lo pagavano di più. Questo è un po' incomprensibile. È incomprensibile, ma diciamo che è purtroppo quello che si sta verificando, e che in un qualche modo vede l'Italia, proprio se dovessimo vedere l'Italia è quella che questi signori del latte, chiamiamoli così, impongono certamente un prezzo all'allevamento, ma vogliono vendere a prezzi il loro latte lo vogliono vendere a prezzi elevati, che al costo allo scaffale è il più elevato d'Europa, che sia in Italia. È per questo che c'è una diversificazione così forte. Quindi anche l'importazione è soggetta a una situazione di questo tipo, perché vogliono comprare il latte magari che costa di meno a produrlo in Germania e poi lo venderlo invece a prezzo italiano. Ah certo, così è comodo. Esatto, questo genera i problemi che a cui di cui sopra, certo, chiarissimo. E allora voi, cari ascoltatori, invece che cosa consumate? Latte fresco, latte a lunga conservazione, preferite il latte italiano, siete contenti che in etichetta ci sarà scritto il latte da dove viene e dove è stato lavorato, se si tratta e dove di è stato munto anche dove è stato munto, ma tutto, insomma tutto è giusto sapere, l'etichetta trasparente non dovrebbe spaventare assolutamente nessuno. La domanda è un po' sempre quella, Manfredini, che ci facciamo, perché questa è un'iniziativa del governo Salvini, rappresentante della Lega, che sulle quote latte ha fatto una battaglia, quote latte che ci sono costate 4 miliardi di euro di multe, lo ricordo, tra l'altro sembravano il diavolo le quote latte, poi sparito il regime delle quote latte, l'Italia è affondata letteralmente nella produzione del latte in Europa. Ma a parte questo, Salvini dice va bene il decreto sulla trasparenza in etichetta, però se non si interviene sui prezzi non si risolve nulla. In effetti il problema è chi paga questo sovrappiù di qualità che deve essere riconosciuto al latte italiano, i consumatori finali che devono spendere di più? Questo purtroppo è la situazione, per cui naturalmente il prezzo di riferimento è il prezzo al consumo finale. La divaricazione, si possono recuperare giustamente delle quote, diciamo, di prezzo al consumo finale per ribaltarle sull'agricoltore, cioè bisognerebbe che la forbice, che si è dilatata veramente tantissimo, venisse ricondotta a un sistema un po' più razionale. Guardate, il problema, aggiungo anche che quote latte, eccetera, noi in Italia importiamo circa 110 milioni di quintali di latte. Se dovessimo fare produciamo circa 110 milioni di quintali di latte, circa 110 milioni di quintali di latte, e ne importiamo in termini di latte equivalente circa 88 milioni di quintali. Cioè, e questo aumento, 88 milioni di quintali. Ma oltre ai nostri che adoperiamo noi, oppure i nostri li esportiamo? Oltre ai nostri che adoperiamo, perfetto, noi. Perfetto. Quindi voglio dire, abbiamo un'Italia che produce e di fianco un'Italia che importa. Quindi questa importazione, che noi l'abbiamo ricondotta in termini di latte equivalente per calcolare quanto latte effettivamente arriva, quindi calcoliamo anche il latte che in questo caso con cui viene fatto importato un formaggio, per esempio, allora lì si vengono a scoprire determinate cose. Per esempio importiamo dei formaggi duri, non ne avremo bisogno perché noi abbiamo i resti dei formaggi duri. Per fare un formaggio duro ci vogliono dai 12 ai 13, anche i 14, 15 litri di latte. Ora significa che si prende quel quantitativo di latte e si ottiene il latte equivalente, in maniera molto semplice. Siamo arrivati a 88 milioni di quintali. Quindi chiudono, latte, è assurdo, perché chiudono le nostre stalle, ma noi in realtà ne abbiamo bisogno di latte, lo compriamo, lo importiamo dall'estero e ci facciamo il formaggio. È un cane che si morde la coda, certo, senso che naturalmente chiudendo le nostre stalle devono per forza contraltare, aumentare di più le nostre importazioni. Quindi poi lì si innesca anche tutto il meccanismo che la legge, cosa importantissima che dobbiamo dire, la legge salvaguarderà, che è il meccanismo con cui questo latte equivalente, questi formaggi che vengono importati in Italia, diventano poi alla fine latte italiano e formaggi italiani. Viva il latte italiano, viva i formaggi italiani, ma non perché siamo campanilisti, ma perché sono buonissimi. Grazie Rolando Manfredini, responsabile di qualità di Coldiretti. Grazie. È tutto anche per questa puntata, vi ricordo che potete scriverci, si può fare @radio24.it oppure la pagina Facebook, si può fare @radio24, l'account di Twitter @ si può fare 24, il mio account personale @AleMaurizi. Vi aspetto, ci risentiamo domenica prossima. Ciao.